Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Susanna Camusso, 57 anni, milanese, una carriera sindacale di grande successo. Per 20 anni dirigente della FIOM in Lombardia, poi segretario generale dell'agroalimentare. Nel novembre del 2010 eletta con 80% dei voti segretario generale della CGIL. Donna di grandi passioni e forti ideali. Femminista storica impegnata a difendere i diritti civili di tutti, anche di lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Al momento della sua nomina, Guglielmo Epifani, segretario generale uscente, di lei ha detto: Susanna ha grandi qualità di testa e di cuore. Beh, dottoressa Camusso, mica male, non va sempre così bene con gli ex. No, non ci sono rancori. Andata bene. Ah, non ci sono rancori, già molto. Senta, Epifani però della legge di stabilità, più o meno detto, va abbastanza bene. Gliel'ha detto, sei matto? Soprattutto gli ho detto non sono d'accordo. Ah, senza dire sei matto, ma di vicino, insomma. Quindi vi siete sentiti subito? Sì, assolutamente sì. Insomma, una critica forte. Ma riconosce lei nell'Epifani segretario del PD l'ex segretario della CGIL? Penso che faccia un lavoro molto diverso da prima, quindi dica anche cose che sì, sono non per sia, un ruolo. Non sia troppo diplomatica, è cambiato molto? No, non così molto. Ma migliorato o peggiorato? Diciamo che il lavoro non è più centrale come era nel periodo precedente. Beh, certo, la visione politica comprende più cose. Ecco, comunque, contro la legge di stabilità, la UIL chiede sostanzialmente lo sciopero generale. Lei al TG3 l'altra sera ha detto, beh, vedremo, dipende, dobbiamo essere tutti d'accordo. Sono passati 2 giorni. Ha visto? Ha deciso? Mi pare che stia ormai un orientamento unitario per farlo. È importante farlo unitario, però. E quindi quando? Nei prossimi giorni, lunedì dovremmo deciderlo. Ma è ancora uno strumento valido lo sciopero generale? Una volta faceva cadere i governi. Sicuramente la condizione adesso è molto differente, comprese le fatiche, comprese i tanti che non sono al lavoro, sono in cassa integrazione, però resta la fondamentale voce per far dire ai lavoratori che cosa pensano. Perché non cade più un governo sullo sciopero generale? Chissà, magari cadranno di nuovo. Ah, cadranno forse. Squinzi, il presidente della Confindustria, però, ha detto ci vuole più coraggio, che questa legge è una delusione. Insomma, sciopererete insieme contro il governo? Insieme direi proprio di no, anche perché non mi pare che le imprese scioperino. Fanno le mi piacerebbe però che ci fosse una maggiore nettezza. Ho sentito di nuovo un lungo elenco di richieste delle imprese e una qualche disattenzione sul lavoro. Però a Genova sembravate molto d'accordo nel vostro abbiamo patto, presentato come delle richieste insieme alle quali non abbiamo avuto le risposte necessarie. Ecco, senta, il governo comunque invece dice tutto bene, diciamo sindacati e imprenditori quasi uniti. Sicuramente critici nel dire che non ci sono le scelte che permettano al paese di ripartire. Ecco, però anche i falchi del PDL dicono che la legge di stabilità non va bene e lo dicono per le stesse vostre ragioni. Che effetto le fa? Non direi per le nostre stesse ragioni, perché il mantra del bisogna abbassare le tasse, l'unica strada è quella, un mantra di diseguaglianza, mentre noi chiediamo esattamente però l'opposto. Però sul cuneo fiscale più o meno dicono le stesse cose. Beh, anche lì, perché poi pensano che il modo per farlo è non far pagare. Insomma, è una compagnia che non vuole proprio vedere. Beh, anche perché penso che tanta parte dei problemi che abbiamo è figlia dei loro di governi. Di quella roba lì. Senta, ma destra e sinistra, in un modo semplicissimo, su cosa si dividono? Perché non è chiarissimo. Sul lavoro, per esempio, sul diritti dei lavoratori, sull'idea dell'eguaglianza. Senta, ma per esempio, l'Alitalia salvata dalle Poste è un successo della politica industriale del governo di larghe intese o è una sconfitta? Che cos'è? Ma si può salvare con le Poste l'Alitalia? L'Italia salvata così è una pezza dell'ultimo minuto, un tema che non si è affrontato per tempo e dentro l'assenza di un'idea e strumenti. Ma è una pezza oppure è peggio, come si diceva una volta, no? Il tacuco è peggio del buco. Cioè no, questo no, perché il peggio sarebbe stata la liquidazione di questa azienda, gli aerei a terra, l'assenza di un vettore italiano della mobilità. Ma non era meglio fare l'accordo con il sud del mondo? Era meglio fare l'accordo con il sud del mondo, sarebbe meglio dire che gli l'Europa, Emirati o qualcosa del che genere. L'Europa norme protezioniste rispetto alle compagnie europee, in questo modo esclude alleanze internazionali di altro tipo. Era meglio avere un piano industriale qualche mese fa e non aspettare la transizione. tragedia. Senta, però, dato che l'Europa è protezionista e noi andiamo verso i francesi ci hanno le idee chiarissime, dicono che se devono mettere i soldi, prima ci vogliono i saldi, i tagli, poi le fusioni, saldi è un lapsus freudiano, e poi la fusione, d'accordo? No, anche perché una delle ragioni per cui non si fece l'accordo con Air France ai tempi fu esattamente la loro idea di tagliare fuori tutta la parte manutenzione motori. Ma ci risiamo però, ci risiamo. Ci risiamo perché si è perso il tempo, si sono persi questi anni invece di rilanciare all'Italia come una grande azienda. Ma i margini di trattativa mi sembrano pochi adesso con Air France. Ma in questo è stato utile invece fare un ingresso di liquidità e quindi mettere la società in grado di avere il tempo di fare la trattativa. Tra qualche mese risaremo lì. Senta, la legge di stabilità. Non è che stabilizza il governo ma non il paese? Questo rischio c'è. C'è il rischio che sia una soluzione che non facendo scelte non scontenta ma nello stesso tempo non affronta i problemi del paese. Ma a lei piacciono le larghe intese? Non particolarmente, soprattutto quando non si capisce dov'è il punto di mediazione tra opinioni diverse. Ecco, ma adesso che non piacciono più neanche a Monti, che si dimette da se stesso, siamo arrivati al paradosso? Siamo a un tema che si chiama crisi della politica. Crisi della politica, totale. E anche delle forme della politica. Senta, ma Berlusconi è finito a proposito o resta il capo indiscusso del PDL? Ma io credo che sia sicuramente cambiata fase, ma non è finita. Comanda sempre lui? In gran parte sì. Senta, lei ha detto che per coprire la riduzione del cuneo fiscale bisognava tassare i bot. Perché? Non ho detto solo quello, ho detto anche quello, perché penso che in una stagione in cui sono impoveriti i redditi da lavoro, le forme che invece hanno avuto un vantaggio possono contribuire al paese. Ecco, ma lei considera i bot delle rendite finanziarie? Lo sono state in grande parte, pensiamo che oggi i bot sono in gran parte detenute per esempio dal sistema bancario, non sono più, come dire, solo il risparmio singolo, individuale. Questo è vero, però se gli investitori istituzionali appunto, per via delle troppe tasse sui bot, non comprassero più titoli di Stato italiano, cosa capiterebbe? Capiterebbe una tragedia. Si fa sempre questo esempio, perché il resto del mondo li tassa diversamente eppure nessuno scappa dall'acquisto dei titoli spagnoli o dei titoli di altri paesi? Noi abbiamo sempre l'idea che avere un comportamento come gli altri determini per noi delle conseguenze. No, si può fare come l'Europa. Però se le entrate crollassero non si pagherebbero più stipendi, pensioni, addio welfare. Insomma, tassare i bot è un bel rischio, no? Ma guardi, non è che si tratta improvvisamente di sottrargli tutto. La cosa assolutamente meno tassata, sono tassati al 12,5%, noi abbiamo ragionato sul portarli al 15-10 punti di distanza rispetto a quel che sono tassati nel resto d'Europa. Adesso stiamo parlando di cose assolutamente ragionevoli, non abbiamo proposto solo questo, non abbiamo detto tutto deve venire dai bot, abbiamo fatto ragionamenti anche sulla spesa pubblica, sulle rendite finanziarie vere e proprie. No, e appunto, io parlavo di quello perché riguarda poi un po' il vostro pubblico, i vostri iscritti, perché i grandi risparmiatori, investitori in bot sono anche pensionati e reddito fisso. Quindi. Certamente, ma sono anche quelli che... Cioè prendersela con loro un po' No, dura. Ma il problema non è prendersela con qualcuno, questo è il modo sbagliato di discutere del fisco, come se fosse prendersela con qualcuno, invece il problema è avere un trattamento equo e progressivo per tutti. Ok, senta... Le tasse in Italia sono così alte comunque. Lei dice che di no, ma insomma, che befera il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Senta cosa ha detto qui a Mix 24. Quest'estate perfino un politico di sinistra, come Fassina, ha detto: capisco l'esistenza di un'evasione di sopravvivenza. Ecco, si è sentito abbandonato o c'ha ragione Fassina? No, assolutamente no, ci sono vari tipi di evasione, noi cerchiamo di combatterli tutti, ovviamente la massima intensità sui grandi evasori, ma cerchiamo di fare una strategia diversificata. Ma quindi l'evasione di sopravvivenza può esistere? Penso di sì, ma non essendo io un evasore, lo so. Insomma, pensa di sì, evasione di sopravvivenza... È lecita, la dice Befera, è tanto. Io non lo penso che bisogna sempre essere molto rigorosi in queste cose, però è indubbio che l'idea che ci siano tasse così alte è figlia di due cose. Una, di un sistema fiscale complicatissimo, per cui uno ha la sensazione che quotidianamente deve svolgere i suoi doveri e si sommano. La seconda, di un sistema profondamente ingiusto. Per cui ci sono situazioni in cui il carico, ma penso ai lavoratori prima di tutto, certo, che hanno un carico fiscale assolutamente sproporzionato, ma pagano quasi tutto loro rispetto, senta, ai loro redditi. Ma lei, a lei piace il redditometro? Non mi urta. Io credo che non ci sia un problema per cui bisogna tenere nascosto al fisco quali sono gli andamenti dei redditi. Quindi, poi bene, come sempre possono essere più. Vabbè, però quindi il redditometro è un passo avanti in qualche modo. Io penso che la trasparenza sia una condizione di certezza per tutti. E quindi sia il redditometro. Senta, un giovane al telefono l'altro giorno ci ha detto: i sindacati non mi interessano perché non hanno mai fatto nulla per me. Terribile, però forse ha ragione. No, non credo che abbia ragione, nel senso che ci sono tante cose che sono state fatte, magari non visibili, magari non sentite direttamente, però è indubbio che per tanti giovani l'idea del lavoro, così come l'abbiamo conosciuto noi, c'è, e quindi si fa fatica a riconoscere l'organizzazione sindacale. Ecco, però lui ci ha anche detto: nella vita non bisogna fare progetti, altrimenti ti cade il mondo addosso. Ecco, questi milioni di giovani disoccupati, il mondo è caduto addosso per sempre, eh? Questa loro opinione è la nostra sconfitta, la sconfitta, certo, delle generazioni precedenti, e credo che l'unica forma di riscatto, se così si può dire, è di non far sì che la loro assenza di progetto di oggi diventi la loro sorte per tutta la vita. Ecco, ma se la maggioranza dei vostri iscritti pensionati, come fate a dare delle risposte a dei giovani così? È difficile. Guardi, in questo paese sono molto più attenti ai temi della precarietà e della necessità di superarla, spesso i pensionati, che non altri lavoratori. Ecco, ma la deregulation che c'è stata in Spagna sul lavoro, qualche risultato sembra averlo dato? È una strada possibile oppure no? Si sottovaluta sempre che nel nostro paese di deregulation ne abbiamo avute una sequenza. Che spesso sono tradotte in moltiplicazione normativa di vie di fuga. Solo complicazioni invece che soluzioni. Non è più quella la strada. Quindi il tema è che manca il lavoro. Certo, quello sicuramente. Ma lo scambio meno diritti più lavoro può essere una risposta? No, perché è una risposta che appunto a quel giovane gli farà saltare qualunque progetto e qualunque ipotesi per sé. E quindi non è neanche vero che meno diritti uguale a più lavoro. No, anche esatto, perché sennò saremmo un paese di piena occupazione, mentre abbiamo una disoccupazione altissima. Assoluta. Senta, ma gli esodati ve li siete dimenticati? Assolutamente no, è una delle questioni che abbiamo proposto al governo. Siamo molto stupiti che non ci siano le risposte, che ci siano continui annunci ma non ci siano mai nessuna provvedimenti. Nessuna risposta, governo degli annunci. Senta, ma 2 anni fa lei mi ha detto: se il governo è in cerca di licenziamenti più facili, era il governo Monti, si deve aspettare un lungo periodo di tensioni sociali. I licenziamenti sono arrivati, adesso arriva la tensione sociale a partire dalla TAV. I licenziamenti sono arrivati in ragione del fatto che non si è contrastata la crisi, non è ripreso il lavoro. Allora, come dire, il governo Monti voleva cancellare l'articolo 18, che era un tema di puri diritti. Ecco, ma il rischio delle tensioni, sociali hanno continuato ad esserci. Questo è un paese in cui ci sono fortissime tensioni sociali, ma siccome si parla poco di lavoro non si vedono. Penso per esempio al fatto che ci sono dei lavoratori che sono sulla fortezza di Piombino perché non vogliono che si spenga l'alto forno, ma non se ne parla. Ma dalla TAV, secondo lei, può venire dagli anti-TAV qualche pericolo terroristico, paraterroristico? Spero di no, e credo che la regola fondamentale sia sempre quella di essere democratici. Senta, ma a 2 anni di distanza la riforma Fornero è stata che cosa? Quella, parlo del lavoro, non delle pensioni. Una riforma mancata che non ha determinato l'universalità. Quindi degli ammortizzatori vantaggio. Alla risposta è che sulla precarietà non ha cambiato le cose fondamentali. Zero vantaggi? Pochi. Tra Fornero e Giovannini c'è differenza? Mi pare che siamo sempre nella sede dei ministri tecnici. Ah sì? E qual è il meno peggio dei due? Daremo un bilancio consuntivo. Alla fine, mamma mia che diplomazia. Senta, ha capito se la seconda rata dell'IMU la pagheremo oppure no? Mi pare di aver capito che non la pagheremo, ma è ancora molto poco comprensibile quanto pagheremo invece. Cioè, alla fine pagheremo tassa di più. Mi pare che dalle cose che stanno cominciando a dire, almeno in alcuni luoghi, è possibile. Ma lei alle primarie voterà? Penso di no. No, perché? Perché penso che per il ruolo che ricopro non sia utile schierarsi dentro una. Quindi non è che non lo dice, non lo fa proprio. Penso di no. Senta, c'è molta polemica sul messaggio alle Camere di Napolitano, la conseguente decisione del ministro di andare in Parlamento portando una legge su amnistia e indulto. Lei è favorevole? Io penso che l'amnistia non sia giusta, che sia invece assolutamente ragionevole pensare a un provvedimento di indulto. Penso però che non si può ripetere un indulto ogni tot anni e quindi bisogna andare a cambiare quelle leggi che determinano il sovraffollamento delle carceri. Ma la cancelliera ha avuto coraggio? Sicuramente sì, grande senso delle istituzioni anche. Ecco, sull'Espresso Denis Pardo parla appunto addirittura di un incoraggiamento che ha avuto la cancellieri da parte del Papa sulla sua strada, così ho letto. Beh, come sempre, non solo questo, anche altri papi si spesero a favore di una condizione umana nelle carceri. Certo, credo che sia una grande questione di civiltà. Papa Wojtyla è andato alla Camera a parlarne, ecco. L'Europa però ci impone di risolvere il problema subito, quindi se uno rimanda prima la legge e poi le cose, andiamo alle calende greche. Io penso che tanto bisognerebbe imparare ogni tanto a decidere, a fare le cose anche con dei tempi ragionevoli. Che l'Europa ce lo imponga, appunto, è un tema di civiltà, ma penso che gli impegni e poi il valore delle scelte del Parlamento possa anche essere rapido. Quindi si aspetta una legge in tempo rapido? Si possono fare insieme contemporaneamente. Senta, ma Napolitano oggi ha troppo potere? Mi pare che non abbia troppo potere in sé, quanto eserciti un potere che è determinato dal vuoto della politica. Quindi Napolitano è l'ultima istanza politica e riempie il vuoto della politica, così riempie, dice. Un vuoto di una partecipazione politica, di un ruolo dei partiti, di un dibattito politico. Insomma, la politica non c'è più, questo dice. È in grandissima difficoltà. A lei piace questo Papa? Ha un linguaggio, un modo di essere che appare del tutto rivoluzionario. Senta un po' cosa ha detto a Cagliari sul lavoro e capitalismo di oggi. Non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Beh, parole che ormai praticamente non usa quasi più nessuno. Questo è uno dei problemi della crisi della politica italiana, non chiamare più le cose col loro nome, averne in qualche modo paura. Basta uscire dall'Italia, sentire leader europei, partiti politici europei e rendersi conto di una nettezza di linguaggio che da noi sembra abolita. Ecco, però per esempio Renzi parla chiaro, ho letto oggi una sua intervista sul Corriere, può piacere o no, ma insomma si capisce quello che dice. Sì, non c'è dubbio, però quando io dico che non c'è nettezza di linguaggio non penso solo alla semplificazione, perché ogni tanto semplificare la complessità non aiuta a trovare le soluzioni. Penso anche a sapere che si può criticare il capitalismo senza che questo voglia dire essere pericolosi e sovversivi, per esempio. Quindi Renzi non gli piace, mi pare di capire. Ci sono delle cose che condivido molto e altre meno. Quale di più? Per esempio mi pare che abbia un nuovo riscoperto interesse per il lavoro, per i redditi da lavoro, che è una cosa interessante, visto che in altre epoche dava per scontato che non era il tema. Ecco, ma mi dica una cosa, ha detto adesso parlar chiaro, mi dice una cosa sulla quale vorrebbe che si parlasse chiaro dicendolo in modo chiaro? Per esempio sul tema dei redditi e della progressività fiscale. Cioè? Faccia capire bene? Che ognuno paghi per quel che ha, dai patrimoni ai guadagni, al reddito, che si dica che non si può evadere e si dica che non è un reato tassare le ricchezze. E da un governo delle larghe intese si aspetta qualcosa in questa direzione oppure no? Si aspetterebbe, non lo so. Lo vorrei, nel senso che penso che questo sia il grande nodo del nostro paese, l'eguaglianza. Ecco, ma dopo quello che abbiamo detto tante cose. Questo governo, secondo lei, è un governo o è un governicchio? Direi che ha scelto di mettere la stabilità prima delle scelte del fare. Sì, ha detto parlare chiaro. Governo o governicchio? Ma no, dica chiaro. Perché per un verso lo è, nel senso che ha scelto una linea politica. È un governo, nel senso che ha scelto una linea politica, che è quella di dire che la stabilità precede. E in che senso è un governicchio? Se lo dovessi dire sul piano della legge di stabilità, no, non fa scelta. Cioè in che senso è governicchio? Nel senso che non sceglie, che decide di un pochino per ognuno senza determinare cambiamento. Quindi più governicchio che governo. Senta, ma lei, l'ultima domanda, che cosa farà da grande? Piacerebbe tanto godere il mare, che è la cosa che amo di più e che spesso si fa troppo poco. Grazie, dottoressa Camusso, ringrazio La ringrazio molto per la sua partecipazione. Sono le 9.30 e 17 secondi. Dopo la pubblicità torneremo in diretta per commentare che cosa bolle in pentola in Italia, nel mondo, come sempre, con Pietrangelo Buttafuoco, Mario Sechi. Vi ricordo il nostro numero è 800 24 00 24. Se invece volete mandare gli sms, il numero è 349 238 6666. Mix 24. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La vita è un letto sfatto, io prendo quel che trovo e lascio. Mi sembra che la regia ha fatto una scelta che potrei immaginare dedicata a Monti, così, eh? Non solo a lui, non solo a lui, a Monti. Ecco, noi siamo di nuovo in diretta, Mix 24, al mio fianco Mario Sechi, Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno. Buongiorno a voi, per le vostre notizie e testimonianze di vita 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Adesso parliamo di che cosa bolle in pentola oggi in Italia e nel mondo, ma prima tutti, da tutti e due, vorrei sapere che titolo fareste per l'intervista di Anna Maria Cancellieri. Mario. Della Camusso. Della Camusso. Scusami, della Camusso. Giovanni, non ti preoccupare. Presto, non ho dormito. Capita. Poco. Abbiamo dormito tutti poco. Ma è la vera sinistra. Eh? È la vera sinistra. E cioè? Sai, non va a votare alle primarie, cioè, è una gran notizia. Gran notizia. Cioè la CGIL di fatto certifica la propria totale autonomia dal Partito Democratico. Così. Che uno può dire, vabbè, è sempre stato così. Però è un segnale molto forte. Sì. Pietrangelo? Beh, perché una cosa è la sinistra, una cosa è la tradizione sindacalista, certo. Nonché... Non è una brutta parola, si può dire comunista, no? No. Non è una brutta parola, però io più che il titolo farei una minaccia. I governi possono cadere, ci sono gli scioperi. Allora, che cosa bolle in pentola? Allora Mario, cosa bolle in pentola oggi? Ma intanto abbiamo Enrico Letta che rientrerà dopo il viaggio, la visita americana. Obama ha detto che l'Italia è nella direzione giusta. Mi chiedo se Obama sia realmente informato di quello che sta succedendo nel frattempo a Roma, perché mentre Letta appunto va alla Casa Bianca per tenere in piedi la baracca brucia. Renzi fa un congresso, trita tutto, dice che vuole la rivoluzione e che cambino anche le banche, beato lui che ha questo potere. Berlusconi esprime un desiderio più che altro, mi sembra. Sì, vabbè, allora siamo in molti. Berlusconi vuole riprovarci con la crisi di governo e vabbè, quindi vedremo un altro pentimento poi direttamente in Senato, cioè minaccerà la sfiducia fino all'ultimo per poi votare la fiducia. E gli scissionisti, ho sentito un po' di gente diceva, vabbè, lui va avanti e indietro e noi andremo avanti. Mi pare il solito Italy, no? Il solito 30 anni. Per cambiare prospettiva, tu invece, Pietrangeli, che cosa, qual è la tua bolla? Cosa ci racconti? Il salamino mio che proporrei oggi è una prosecuzione appunto di salami rispetto a quello che abbiamo detto nei giorni precedenti, quando, approfittando della polemica sollevata da Gian Arturo Ferrari dalla Buchmesse. Ok, questo l'abbiamo capita. Questa l'abbiamo capita. Io mi sono avventurato, girando tra i blog, in una puntuale osservazione di Marco Ciriello, grandissimo, bravissimo reporter, grande scrittore, il quale ha ribaltato la situazione, ma proprio perché lui è di Napoli è venuta in mente una storia terribile, che è questa. Chiude la libreria Guida a Napoli. E quando chiude una libreria è come se chiudesse nel quartiere una parrocchia, come se chiudesse in un quartiere una caserma dei carabinieri, come se chiudesse un avamposto fondamentale per la vita quotidiana, perché le librerie sono necessari luoghi di libertà e di esercizio di critica e di emancipazione. Ed è una maledettissima situazione questa di una porca Italia che abbandona il suo alfabeto. Ecco, noi abbiamo al telefono Marcello Ciccaglioni, proprio presidente degli Ebrei Italiani, per sapere rapidamente davvero a che punto sta la situazione. Anche a Roma chiudono parecchie librerie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono il presidente degli Ebrei Romani. Ah, sono romani. Italiani. Ah, pensavo italiani. Comunque. Però è un riferimento fondamentale per tutti gli ebrei. Ah sì, grazie. Ma dicevo, il fatto che chiudono le librerie e adesso, come diceva Buttafuoco, che chiude una libreria storica così importante, fondamentale, che da anni ha significato la cultura a Napoli come guida, è una cosa che deve far tutti quanti riflettere, ma riflettere nel senso che il nostro, noi facciamo questo mestiere meraviglioso, ma è un'attività commerciale particolare, non può essere parametrata appunto ad altre attività commerciali. Dopo 3 anni di crisi economica, una enorme contrazione di consumi, cioè queste attività che hanno una remunerazione bassissima non possono più tenere il mercato. E quindi, insomma, diciamo che è un destino segnato, però la diversificazione dei prodotti dentro le librerie può aiutare, anche se in modo forse un po' indiretto, a sopravvivere o no? Però guardi, il discorso della diversificazione del prodotto, per cui che noi nelle nostre librerie, per sostenerle, per mantenerle, vediamo un po' di ragionare su questa cosa, dobbiamo mettere rapidamente. Necessariamente dobbiamo mettere o caffetterie o ristoranti. A me non trova d'accordo. Non trovo d'accordo perché questo paese non crea le condizioni perché, come in paesi civili come la Francia, sì, dove aumentano le librerie, non si creano le condizioni appunto con delle situazioni anche che vanno proprio definite anche dalla politica. C'è una domanda di Buttafuoco, sì, per lei, scusi, prego, se la interrompo, prego, ma prego. Siamo... Prego. Con poco tempo. Io, come Ciccaglioni lo sa, sono un ex libraio e conosco la materia, ma vogliamo dire quanto danno fanno le banche ai librai? Ma questo fa un danno enorme, perché le banche trattano i librai come se fossero dei commercianti normali, non si rendono conto, ma non c'è una sensibilità non soltanto nelle banche, ma a livello appunto proprio generale. Se non si crea una condizione in cui la gente accompagna le librerie, io quello che rimango appunto è una cosa però che voglio dire, se sì, mi è concessa, sì, rapidamente, che la problematicità delle librerie è questa, non sensibilità, e chi ama anche i libri, le librerie, compra online. Questa è una iattura che voglio appunto in questo brevissimo... È il mondo stato moderno che avanza, però, anche. Sì, ma il va mondo bene moderno, non c'è poi, se questo discorso non viene accompagnato, questo mondo moderno, e che le librerie scompaiono in un paese come appunto l'Italia, non ci saranno importante, più librerie. È importante resistere, ho capito. Questo la ringrazio molto, naturalmente, Marcello Ciccaglioni, presidente dei Librai Romani. Abbiamo al telefono Alfonso da Napoli. Alfonso. Salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo parlare per introdurre una situazione che trovo in ospedale. Io sono un dipendente pubblico, un infermiere, lavoro a Napoli, e il sindacato non aiuta i lavoratori. Noi abbiamo problemi di personale, vogliamo creare un'assistenza decente a Napoli, noi ci teniamo. Io ho lavorato a Milano e ho imparato tanto, che la professionalità è forte. A Napoli voglio, cioè, siamo venuti giovani con la speranza di migliorare, ma il sindacato ingabbia tutto, non aiuta. Questo manca è il problema. Manca personale, Mario. Si chiudono, non aprono. Mi perdoni un solo secondo, lo voglio dire, cioè, non c'è personale e il sindacato blocca i trasferimenti, ma da ospedale a ospedale. Cioè, è tristissimo, la gente ricoverata, gli infermieri sotto stress, possibilità di errore, poveri pazienti che possono subire un danno per la vita. C'è bisogno di veramente, c'è quello bisogno che lei di una dice, coscienza. Quello che lei dice è davvero drammatico. Mario, grazie, la ringrazio molto per questa testimonianza. Mario. Ma la testimonianza è ovviamente molto, molto sentita e partecipata. Mi riaggancio alla questione delle banche, perché c'è una bella notizia, e cioè che la Rabobank, che è un gruppo olandese, primo in Europa, taglia i bonus ai propri manager. Questa è una notizia, si comincia. Questa è una notizia, si comincia. Poi, almeno fuori Italia si comincia. Poi io segnalo il caso di Silvio Scaglia, secondo me enorme, fondatore numero uno di Fastweb, dopo 90 giorni in carcere e 9 mesi di arresti domiciliari, innocente. Speriamo di averlo presto, ospite di Mix 24. Sì, se ci ascolta lo aspettiamo. E io penso che su questo caso ci sia molto da meditare, anche sullo stato della giustizia. Un numero, 7.8% è la crescita della Cina nel 2013, nessuna economia occidentale fa tanto, eppure è il dato più basso per la crescita cinese negli ultimi 23 anni. Quindi anche la locomotiva, pur sviluppando molto, rallenta. Grazie Mario, dopo la viabilità parliamo di televisione di qualità e chiederemo al professor Simonelli, storico della televisione, come sempre, dov'era il canone ieri sera. Mix 24. Siamo di nuovo in diretta su Radio 24, sono le 9.47, 10 secondi, al telefono il professore di storia della televisione Giorgio Simonelli, ricordo il nostro numero 800 24 00 24, per chi vuole mandare un sms 349 238 6666, prima di Simonelli c'è ancora una bolla di Mario. Una bolla Mario. In vinile, record di vendite del vinile nel Regno Unito, 550.000 copie e non di dischi del passato ma di questo. La cronaca. Simonelli, ha capito? In Inghilterra ancora il vinile. Fa il pieno. Senta, allora, dov'era il canone ieri sera? Rispondiamo a questa semplice ma importante domanda. Ieri sera, come da parecchie sere, da settimane, da mesi, il canone appare alle 20 sulla 7, perché il TG della 7 è un TG vero, è un vero TG, con un conduttore, con un anchorman, in un momento in cui i TG vanno un po' sbiadendo, perdono un po' il senso anche della loro ritualità, mi sembra che questo TG si sia affermato come un punto di riferimento importante. È un grande figlio della RAI, Enrico Mentana, perché il nome sì, è quello. Solo che faccio una domanda provocatoria, qualcuno saprebbe dire il nome di un conduttore di TG della RAI attuale o anche di altre reti generaliste? Questo è il vero problema dei TG. Invece lì sulla 7 accade una cosa, che c'è un signore che spiega non solo quali sono le cose importanti della giornata, che meritano quindi una riflessione, perché il TG ormai è un luogo più di riflessione che di informazione vera, e soprattutto spiega il motivo per cui sono state scelte quelle notizie, quegli argomenti, per fare la scaletta delle priorità. Dalla vera scaletta delle priorità, insomma, è anche vero che è un direttore che conduce il telegiornale, come i grandi anchor americani, penso alla CBS, e naturalmente quello dà un'autorevolezza e anche un potere di interpretazione delle notizie diverso. Ma dimmi Mario. Ma mi pare che alla RAI ci sia un ordine di divieto di conduzione dei direttori. Beh, no, per esempio sul TG3 non è vietato, perché Bianca Berlinguer c'è un limite. Forse avrà un contratto speciale. Ecco, abbiamo ancora una cosa? Simonelli? È un segno di debolezza questa. Certo, in un qualche modo la personalizzazione d'autorevolezza, per fortuna che Bianca Berlinguer resiste allora. Abbiamo al telefono Patrizio Roversi, buongiorno. Patrizio conduce la nuova edizione di Linea Verde, un classico del servizio pubblico della RAI. Ecco, questa esperienza di conduzione per te, che hai fatto di tutto, questa conduzione di Linea Verde, che emozione ti dà, se ti dà un'emozione? Guarda, allora, da un punto di vista biografico devo premettere due cose. Lo so che non è fine parlare di sé, però due cose importanti. Quando tu, Giovanni Minoli, sei venuto a Bologna, ci hai visto, ci hai portato in TV, e il mio babbo mi ha visto in televisione. e ha detto sì, vabbè, però se conducesse Linea Verde sarebbe una persona seria, ma finché fa quelle cose lì, quindi in qualche modo per me era una specie di traguardo, di l'università, cose proprio... andavi all'università, insomma. Sì, la consacrazione, capito? Interpretavi perché... i sogni del papà. Perché come sai pesano sempre no, i sogni dei genitori sulle spalle dei figli. E poi nel farlo hai scoperto che il papà aveva ragione? Nel farlo ho scoperto non solo che papà aveva ragione, ma che in effetti, lo dico in generale, se abbiamo qualche prospettiva, parlo come azienda Paese, Italia, sì. Probabilmente dobbiamo ritornare al settore primario, perché attraverso certo. il tema dell'agricoltura poi adesso passa tutto. No? C'è un incremento di un ritorno alla terra dei giovani? È vero che c'è, però ci sono, da quel poco che ho capito finora, alcuni grossi problemi. Innanzitutto, diventare imprenditore agricolo è complicato, perché dovresti acquisire la terra che ha dei prezzi altissimi. Quindi diciamo che solo alcuni che hanno la fortuna di aver avuto il nonno agricoltore adesso possono tornare alla terra magari con idee nuove. E dall'altra è vero che è un settore in espansione, è vero che in termini occupazionali aggiunge qualche punto in più, però ci sono delle contraddizioni dentro che sono abbastanza feroci. Ecco, ma tu, dal tuo punto di vista, diciamo, di ignorante specifico, qual è il valore aggiunto che un ignorante specifico può portare nel racconto? Perché può essere molto, perché è l'occhio fresco di chi guarda da fuori. Guarda, ti ricordi che mi hai assegnato a suo tempo la conduzione di una trasmissione sui libri, sì. Si chiama Per un pugno di libri, esatto. E onestamente ne abbiamo parlato in maniera lucida e mi hai detto guarda, sei ignorante e quindi vai bene, e io trovo che questa sia una provocazione che ha assolutamente uno spessore, cioè la persona curiosa come io spero e credo di essere. Tu sei molto curioso. Ma che però non è a conoscenza delle cose, fa le domande, esatto. si spera le domande giuste. Sì, sì. Se capisce lui, cioè se capisco io, dovrebbero capire tutti, no? Ma girando tanto per l'Italia e anche fuori, il problema sì. tuo è la circonferenza, no? Immagino. Beh, allora io la circonferenza della Terra l'ho percorsa quella in barca, sì. e ho visto che non è poi tanto, e adesso in questo modo ho anche letto degli articoli dove si dice che non è più come una volta, che ti dicevano se hai la circonferenza troppo grossa campi poco e stai male. No, adesso hanno fatto un passo indietro e quindi certo, facendo Linea Verde io assaggio molte cose, e però mi tocca ricordare, anche se forse tu da un punto di vista anagrafico vorresti dimenticarlo, che Aldo Bruno e Giovanni Minoli facevano Acqua Agricoltura. Esatto. E io questa cosa fa, insomma, consentimelo, mi è piaciuta, perché dico allora davvero è una grande scuola di formazione. Beh, e poi tu hai una grande squadra dietro le spalle. Allora, su questo mi devi concedere due secondi, due. Perché è proprio vero. Ci ho trovato alla RAI, sai, quei grandi professionisti che hanno le spalle in esperienza. Quelli che lavorano. Sì, l'hai detto tu, esatto, proprio loro. ed è un piacere lavorare con la squadra della RAI. Bene, io spero, ti faccio tanti auguri, perché è un programma che amo e che è un programma di servizio pubblico per davvero, e spero che la tua esperienza sia vincente. Grazie Patrizio. Io ti ringrazio tanto, altrettanto, ciao. Ecco, dopo il giornale radio continua Mix 24 con la storia. Il 18 ottobre del 1889 moriva in America l'inventore del telefono. Oggi la storia, curata da Marina Milone, raccontiamo appunto la vita di un uomo straordinario, quella di Antonio Meucci, l'inventore del telefono, con una invenzione però il cui brevetto è molto contestato tra Meucci e Bell.